La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino in diretta qui dagli studi di Radio 24 di Milano vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi dice subito che oggi parliamo di immigrazione. Lo so che i giornali continuano a tamburare, i siti su Roma, 5 Stelle, eccetera, eccetera. Non perdiamo di vista che ci sono anche altre vicende molto importanti aperte nel paese. E perché ne parliamo? La mia domanda a voi per sollecitarvi, se volete, a intervenire all'800 24 0024 e naturalmente sapete che per le opinioni con gli sms è 349 238 6666 e su un incontro che c'è stato ieri, cioè su un'idea che sembrerebbe fatta propria e condivisa dai comuni italiani, i sindaci, chi li rappresenta, cioè l'ANCI e il governo, in relazione a una svolta organizzativa nazionale condivisa tra comuni e autorità centrale, cioè il governo attraverso i prefetti, per la gestione, cioè per l'assegnazione, per così dire, su come spalmare e attribuire nelle diverse parti d'Italia i profughi e i migranti che vengono dal Mediterraneo. Vedremo meglio di che si tratta. Diciamo che l'ANCI ieri ha portato al governo 5 punti condivisi, adesso ce li facciamo spiegare bene. Fino a questo momento, in tutti questi anni, cioè dalla legge Martelli in poi, dall'inizio degli anni 90, cioè da quando l'Italia ha iniziato a diventare una terra di approdo in numeri sempre più elevati, noi abbiamo avuto un modello che si è evoluto per gestire il salvataggio nel Mediterraneo e i primi centri per, tra virgolette, stipare dietro le coste chi sbarcava, ma non ci siamo, incredibile a dirsi dopo tanti anni, mai dato un modello condiviso tra autorità centrale ed enti locali su come si procede poi alla distribuzione dei diversi tipi, peraltro, di migranti. Sapete che dal 2015 in poi, da quando Angela Merkel nell'estate del 2015, senza preavviso, senza averlo contrattato, annunciò la sua politica delle porte aperte a chi ha diritto di asilo, cioè chi viene da paesi con guerre civili o con guerre esterne in corso, cioè i siriani, gli afghani e così via, sapete che questa vicenda è esplosa perché il corridoio balcanico ha portato alla rivolta di tutti i paesi dell'Europa centrale, all'erezione di muri e così via. La Merkel perde le elezioni a casa sua sistematicamente, localmente, l'avete visto anche domenica scorsa, perché una parte crescente anche dei tedeschi dice no, è stato un errore la politica della porta spalancata. Proprio stamattina la Merkel al Bundestag ha ribadito comunque che quanto la Germania spenderà quest'anno e negli anni prossimi per integrare e per il welfare agli immigrati non leverà un euro al welfare per i tedeschi, ma insomma è in difficoltà ed è l'Europa intera che è in difficoltà nella gestione di questo fenomeno. La novità sarebbe quella invece di un modello che per la prima volta dall'inizio degli anni 90 vede alcune regole condivise tra enti locali italiani, i comuni e l'autorità centrale, cioè il governo, per evitare quello che in questi anni è diventata la regola, alcuni partiti politici contrari all'immigrazione e alla politica delle porte aperte la cavalcano duramente dicendo noi non li vogliamo più gli immigrati, sono troppi e così via. Ma in realtà poi sindaci di ogni colore hanno dovuto dire in diverse parti d'Italia noi ne abbiamo veramente troppi. Perché? Perché fino a questo momento era il governo con i prefetti che annunciava le quote di ripartizione, con il risultato che se voi andate a vedere la carta geografica dell'Italia su dove si concentrano le percentuali più elevate è una macchia di leopardo, ma il più dell'Italia non conosce questo fenomeno. E allora può tutto questo continuare a passare attraverso le decisioni centrali, unilaterali del governo, con il prefetto che a quel punto convoca i sindaci e comunica loro ve ne arrivano questa settimana tot, il prossimo mese tot e datevi da fare per trovare le strutture in cui sistemarli. Attualmente, dopo decenni, funziona ancora così il nostro paese. Allora la mia domanda è: pensate che sia un bene quello che adesso vi diranno dei criteri che pare siano condivisi, verranno poi tradotti probabilmente in norme ad hoc, oppure siete comunque convinti che ce ne sono troppi? Allora, numeri ufficiali: fino a questo momento l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quindi l'ONU, parla di arrivi in Italia in questo 2016 grosso modo analoghi a quelli dell'anno scorso, cioè la stima è che si arriverà a 116.000, 120.000 rispetto a 115.000. La realtà è che il corridoio balcanico si è chiuso per effetto anche dell'accordo tra Turchia, Grecia, insomma dell'accordo che la Merkel ha dovuto condurre in porto con i miliardi dati ai turchi, malgrado il colpo di Stato e malgrado la stretta di Erdogan in corso, per non far più sbarcare in Grecia e non inoltrare quindi nel corridoio balcanico per andare nei paesi più ricchi dell'Europa il flusso dei migranti, ma è ripreso massicciamente invece il canale Mediterraneo che arriva in Italia. Siamo nelle ultime 2-3 settimane, è chiaro che d'estate il Mediterraneo è più calmo e quindi anche di questo si approfitta. Ma tra la situazione libica, l'Egitto che per avere voce in capitolo su una certa sistemazione della Libia che non è quella che piace all'Italia, che tiene gli occhi chiusi per così dire, quindi lascia partire i barconi e non sta attento al suo confine con la Libia, siamo in queste ultime settimane anche a 10-15 mila arrivi a settimana salvati dal dispositivo navale internazionale, di cui l'Italia è parte forte, poi ci sono anche però navi di altri paesi europei. Capite che con 15 mila arrivi a settimana il tilt diventa dietro l'angolo. Allora, si può immaginare come questo nuovo criterio ripartito e che non porti a rivolte di sindaci e di comunità locali, ma più equo nello spalmarsi gli oneri e a quel punto però anche con che risorse, visto che molti comuni stanno allo stremo per il patto di stabilità interna e così via. Allora, per spiegarci come la pensano, abbiamo due ospiti. Per l'ANCI, il vicepresidente dell'ANCI, nonché sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. E poi abbiamo però voce critica, dichiaratamente critica, non da adesso, ma sentiamo come la pensano su questi criteri, il segretario nazionale della Lega Nord, Lega Lombarda, nonché deputato per la Lega, Paolo Grimoldi. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio agli ascoltatori. Ricci, ci spiega questi 5 criteri su cui ci sarebbe stato questo accordo tra l'ANCI e il governo ieri? Ma è molto semplice, purtroppo noi avremo a che fare per anni con questo fenomeno che sappiamo si risolverà in Libia, si risolverà con cooperazione internazionale, si risolverà se l'Europa fa maggiormente l'Europa, tutte cose che discutiamo quotidianamente. Ma nel frattempo ci sono delle persone, delle vite che vengono salvate e noi dobbiamo come paese tutti insieme gestire questo fenomeno dell'accoglienza con grande pragmatismo. Da anni noi diciamo al Ministero degli Interni che il meccanismo che i prefetti decidono per conto loro è un meccanismo che non funziona e che ha creato molte tensioni, soprattutto in comunità troppo piccole dove sono arrivate dei gruppi di profughi troppo grandi, mentre invece una distribuzione coerente su tutto il territorio nazionale, su tutti i comuni, potrebbe creare delle condizioni per la gestione del fenomeno con tantissime tensioni in meno. Abbiamo stabilito che la media potrebbe essere, insieme al Ministero degli Interni, quella di 2,5 ogni 1000 abitanti, 1,5 per i comuni metropolitani che magari hanno problemi maggiori, soprattutto nei quartieri periferici. Con un criterio di questo tipo e facendo diventare i sindaci protagonisti, noi potremmo avere una gestione migliore. Del resto i comuni dove questo già avviene in accordo con i prefetti, la mia è una di quelle realtà, ha avuto tantissimi problemi in meno nella gestione. E l'altro elemento è che questi ragazzi non possono stare tutto il giorno senza fare nulla, ci sono esperimenti interessanti. Noi siamo stati uno dei primi comuni a fare il volontariato sociale, cioè questi ragazzi sono impegnati durante il giorno in lavori di pubblica utilità, nei parchi, nelle scuole, aiutano i nostri volontari in coordinamento con ovviamente i servizi del comune e non solo così restituiscono attraverso un po' di lavoro volontario l'accoglienza che il paese e la città gli dà, ma si sono fatti conoscere, hanno potuto raccontare il dramma dal quale provengono a tanti cittadini e quindi si sono sviluppati anche elementi di integrazione nuovi. Non c'è altra strada che questa, lo diciamo da sempre come ANCI, tutti l'ANCI rappresenta tutti i comuni, quindi qui non c'è colore politico, è un ragionamento pragmatico che come sindaci facciamo da tempo. Siamo soddisfatti che finalmente il Ministero degli Interni abbia sposato le nostre proposte e che ci sia stato ieri questo incontro con il Ministro Alfano che sostanzialmente fa cambiare al Paese l'impostazione che ha avuto fino a questo momento. Due domande, ma Una volta stabilita questa proporzione, distinguendo tra le grandi aree metropolitane e invece gli altri comuni, 1,5 e 2,5 per 1000 abitanti, resterebbe la facoltà ai sindaci di dire no comunque? A. B. Ci sono anche risorse proporzionate a quello che poi si chiede ai comuni di fare? Le risorse sono sempre le stesse, sono le risorse statali ed europee che noi utilizziamo per l'accoglienza, quindi non stiamo parlando di risorse dei comuni. Sì. Comuni eventualmente, così come le strutture religiose, così come altre strutture, mettono a disposizione eventualmente dei luoghi, degli edifici sì. adatti, quindi in questo caso non si sta parlando di risorse del comune che come sappiamo sono poche e spesso e volentieri finite. Ci sono due reti in questo momento, una è la rete SPRAR, che è quella della quale parlavo, che è un sistema che vede i comuni protagonisti, e l'altro sistema invece... Il sistema di protezione per chi richiede asilo, SPRAR sì, vuol dire questo. Che però diciamo vede l'ANCI, è un progetto dell'ANCI, vede i comuni protagonisti da sempre. Sì. E poi invece c'è la rete che passa attraverso i prefetti, sì. laddove i prefetti hanno... la capacità di coordinare i sindaci, di ascoltare i sindaci, abbiamo avuto meno problemi. Laddove i prefetti si sono imposti obbligando i sindaci a fare cose o non stabilendo insieme a loro dei criteri, abbiamo avuto molte tensioni. Poi è anche vero che ci sono dei sindaci che a prescindere dai criteri su questi temi spesso e volentieri fanno un po' di demagogia e in qualche modo cercano di prendere un voto in più mettendosi di traverso qualsiasi criterio, però sono convinto che la stragrande maggioranza dei sindaci su criteri oggettivi che... Però lei lo sa Ricci, che ci sono stati anche sindaci che si riconoscono nei partiti di maggioranza di governo che hanno detto no, adesso al di là del caso di Capalbio ampiamente insufflato quest'estate dalla stampa perché tutte le estati Capalbio, centro Radical Chic e così via, però ci sono anche nella stessa Lombardia sindaci del PD, sto pensando con quello che avviene a Chiasso, Como e così via, dove ci sono concentrazioni, siamo al punto in due settimane dalla Svizzera, la Svizzera ha restituito 7.000 migranti all'Italia, cioè ci sono delle parti d'Italia in cui effettivamente i sindaci al di là del colore politico dicono no, qui siamo in una condizione che non sappiamo più come fare, ecco ci sono alcune parti d'Italia, no Ricci? Hanno ragione, io stesso un anno e mezzo fa al prefetto ho detto ad esempio no agli alberghi, perché gli alberghi nella testa delle persone sono un privilegio e soprattutto perché in realtà turistiche come Pesaro che vogliono crescere sul turismo, gli alberghi messi male devono essere messi a posto per fare il turismo e non per questo tipo di attività. Ed è giusto, ci sono tanti sindaci che io conosco nel mio territorio, abbiamo delle comunità troppo piccole con gruppi troppo grandi, nonostante ripeto che il prefetto di Pesaro credo sia uno di quelli che ha fatto il migliore lavoro di distribuzione. Diciamo, questi... Quindi i sindaci che si lamentano perché ne hanno troppi rispetto ai residenti hanno ragione, i sindaci che non vogliono collaborare a prescindere nonostante ci siano criteri oggettivi ovviamente allora, fanno politica okay, e non vogliono collaborare. La prego di restare con noi perché proprio ieri c'è stato anche un gesto di protesta di 23 sindaci leghisti della provincia di Brescia che hanno disertato una commemorazione a Brescia, si commemorava Martinazzoli, col Presidente della Repubblica Mattarella ed è quella protesta proprio per la linea che Quirinale condivide e promuove, cioè quella dell'accoglienza. Allora, quello che chiedo a Paolo Grimoldi a questo punto è: questi nuovi criteri più condivisi tra sindaci, comuni e il governo senza imposizione dei prefetti sono un passo avanti secondo voi o il problema rimane tale quale prima e siete contrari? Grimoldi. Ma allora innanzitutto mi lasci dire che il prefetto non è che viene da Marte a dare gli ordini. Il sindaco di Pesaro diceva i prefetti lasciando intendere quasi che sono brutti e cattivi, gli impongono gli immigrati. I prefetti fanno quello che dice il governo. Sì, sì, sì, certo. Quindi, caro sindaco di Pesaro, citofonare Renzi, perché c'è qualcuno che dà gli ordini a questi prefetti. E i prefetti hanno l'ordine di imporre la presenza degli immigrati, che poi, numeri alla mano, sono per, ce lo dice lo stesso governo, 80-85% come minimo clandestini. Seconda osservazione. Per entrare nel merito della sua domanda, sì, va bene. Io però da addetto faccia ai dare lavori... un dato, mi faccia fare un dato che a me ha fatto molto riflettere quando l'ho detto, è un dato ufficiale, cioè dei 68.000 nel 2016 che hanno, di cui sono state compiute di tutti quelli che sono arrivati, registrate le richieste di asilo, 34.000 hanno ottenuto come risposta la negazione, non accoglimento, non c'erano i requisiti e il foglio di via nel nostro ordinamento prescrive di lasciare il paese entro 10 giorni e questo quasi mai accade. E questa è la realtà con cui noi dobbiamo guardare il fenomeno. Qui non c'entra la speculazione politica, c'entra il fatto che questo fenomeno convive nel nostro ordinamento con la produzione sistematica di decine di migliaia di clandestini, che a quel punto hanno un ordine in mano che però non viene eseguito e quindi restano tra l'Italia nella speranza di andare in altri paesi. Solo per far capire a chi ci ascolta, Grimoldi. Ecco, io aggiungerei anche, da addetto ai lavori di chi segue la politica, le dichiarazioni politiche, gli intenti politici, che quello che più o meno abbiamo sentito dal governo è la cosiddetta accoglienza diffusa, sì, che il Partito Democratico racconta di voler fare da 2 anni. Il problema è che l'accoglienza diffusa che Renzi vuole fare e ci dice che fa da 2 anni a questa parte, non si riesce a fare perché poi sul territorio anche e soprattutto sindaci di centrosinistra si mettono di traverso e quindi i prefetti impongono la presenza degli immigrati là dove hanno degli stabili a disposizione del governo. Però il criterio di ieri servirebbe nella dichiarazione ufficiale, per come ce l'ha spiegato Ricci, proprio a superare questo problema. E io questo non posso che dire che è un passo avanti, perché ci mancherebbe altro che vengono a imporre contro la volontà popolare. Cioè, tradotto, se in un comune vince un sindaco che in campagna elettorale dice io non prenderò i clandestini, poi arriva il prefetto, cioè il governo, e gli impone contro la volontà popolare prima che contro il sindaco. Ma al netto di questo, il problema sta a monte. Ora, io prendo solo le notizie di oggi. Sì. La notizia di oggi è che la Gran Bretagna finanzia un muro contro gli immigrati dove che arrivano Calais. Sì. A Calais, in Francia. La seconda notizia è che l'Austria posiziona 2.200 soldati al confine perché non vuole i clandestini. Allora, se uno passa il confine con la Francia, con l'Austria, per non parlare della Svizzera che lei giustamente accennava prima, sì, ce li rimandano indietro. Allora, basta con la barzelletta che noi dobbiamo convivere con l'immigrazione perché dobbiamo prenderli perché il resto d'Europa non lo fa. La Spagna fa i respingimenti. Se uno è clandestino, tra l'altro, va rimandato al proprio paese perché è immigrato illegalmente. Quindi mi pare di capire, scusi, solo perché abbiamo l'interruzione di un minuto adesso per il traffico, poi voglio naturalmente che le risponda Ricci e lei controrisponda. Lei dice sì, sarà anche un passo avanti, ma comunque il problema dimensionalmente è che l'Italia in queste condizioni dovrebbe assumere una scelta diversa, corretto? Come sintesi? Lei è particolarmente attento ai numeri. Quando nella legge di stabilità il governo stanzia 3,3 miliardi sì, per l'accoglienza degli immigrati, lei capisce bene che questo diventa un business colossale. Cioè, per l'emergenza terremoto, per capire le cifre, sono stati stanziati 154 milioni. Fino a questo momento, sì. Fino a questo momento. Per gli immigrati, ogni anno, in legge di stabilità, 3,3 miliardi. È diventato un business colossale. Poi, a fine pensare male, si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Però le indagini hanno comprovato che spesso ci si azzecca. Allora, un minuto di traffico e torniamo con i nostri due ospiti. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, rapidissimamente, rispetto agli SMS, vi ho dato le cifre ufficiali aggiornate delle richieste di asilo e di chi non è stato, di quelle esaminate non sono state accolte. I fogli di via sono decine di migliaia, 34.000, e però i fogli di via non funzionano, lo sappiamo, è un problema perché il riaccompagnamento si fa attraverso intese bilaterali, è costoso, e poi loro spariscono sul territorio sperando di andare in altri paesi europei oppure diventano clandestini in Italia. Questo è il fenomeno, continua a essere così in Italia. Molti di voi considerano positiva la proposta del Lanci, per esempio ne leggo uno, Giovanna: la proposta del Lanci è razionale, ma non è la soluzione. L'unica è velocizzare le procedure di identificazione e di verifica del diritto all'accoglienza, che si potrebbero esaurire prima degli sbarchi sulle navi, a cui dovrebbero seguire immediatamente i rimpatri assistiti. Certo, quello di Giovanna è una risposta razionale, però non siamo riusciti a metterlo in piedi mai, un sistema di questo genere. Ricordo che fino all'anno fa eravamo soli nel Mediterraneo, poi oltretutto a doverci purtroppo sbarcare la giusta umanitaria causa di salvare chi annegava sui barconi messi in piedi dai trafficanti di carne umana. Altri dicono: ma cos'è questa storia della Gran Bretagna? Sì, avete sentito bene, stamattina al Question Time di Theresa May, il premier britannico, che ha dichiarato: non diremo il nostro piano per la Brexit se non quando avremo le idee chiare e quando ci farà comodo dirlo, saranno i nostri interessi ben definiti. Ha confermato che rispetto alle notizie venute dalla Francia l'idea è quella di mettere un blocco, muro, chiamatelo come volete, per impedire che da Calais continuino ad arrivare clandestini in Gran Bretagna. Lo ha detto Theresa May questa mattina. Che dice Matteo Ricci di quello che ci ha spiegato Paolo Grimoldi? Dice: passo avanti, però il problema è che qui l'Europa ci dimostra che c'è chi ha chiuso le porte e noi continuiamo invece a pensare all'accoglienza distribuita. Noi siamo sul Mediterraneo e il Mediterraneo è diventato il più grande cimitero del mondo. È nella nostra cultura italiana ed europea salvare vite umane. Se poi c'è chi non condivide del tutto questi principi, parliamo ovviamente d'altro. Se noi salviamo delle vite umane e finché arriveranno queste vite umane abbiamo un problema di gestione dell'accoglienza che non può essere buonista, ma deve essere pragmatica, come ho provato a spiegare da sindaco. Il sindaco ha fatto un ragionamento correttivo rispetto al meccanismo attuato fino ad oggi dal governo e la notizia di ieri è che finalmente il governo ha accettato le nostre proposte. Quindi è sicuramente un passo in avanti. Dopodiché il problema si attenuerà o si risolverà se in Libia ci sarà un governo con il quale sarà più possibile fare accordi bilaterali, cosa che oggi è molto complicata, se in Africa verranno con le azioni di cooperazione internazionale, tante volte abbiamo detto aiutiamoli là, poi ogni qualvolta si investe in cooperazione internazionale si grida lo scandalo perché si buttano soldi. No, ma è chiarissimo, sappiamo però che il problema è più grande di noi, anche lei non si nasconde che politicamente resta un crinale tra chi è favorevole e chi no. Ma a questo punto però la domanda che io faccio a Grimoldi: ma quindi i sindaci leghisti, cioè la Lega, dirà ai suoi sindaci non partecipate comunque alla ripartizione delle quote con questi criteri spalmandolo in tutta Italia? Questa è la linea della Lega? Ma sa, se sono clandestini, per me è sbagliato a priori prendere sul proprio territorio un clandestino. Io non voglio partecipare alla ripartizione di clandestini sul mio territorio perché al di là del costo economico comportano un costo anche di ordine pubblico, di carattere sociale. Basta leggere le cronache dei giornali locali e la cronaca nera per capire poi quello che succede, e quello è un costo non calcolabile perché non sono soldi, sono la pena dei cittadini. Chiarissimo. Allora, detto questo, quindi il problema resterà. Però, secondo me, dal punto di vista ordinamentale, è un passo avanti condividere. Io lo scrivo da 20 anni, che bisognava pensarci all'inizio su come gestire al di là del mare e dello sbarco con un sistema istituzionalmente condiviso. Se non si fa così, non si penserà nemmeno poi a chi ha le carte in regola per organizzare l'integrazione vera, e quindi il problema resterà. Se li si sbatte nelle periferie si crea un problema per gli italiani a basso reddito che ci vivono. Non è questione di essere razzisti, è così e lo abbiamo visto in molte parti d'Italia. Allora sentiamo rapidissimamente Claudio da Pesaro. Buonasera Giannino. Tra l'altro la città di Matteo Ricci, in cui esatto, sì. Io volevo dire al nostro caro sindaco comunque che non ho capito bene che intenzioni ha. Se gli altri sindaci non li prendono, li prendiamo tutti noi qui a Pesaro? No. No, scusi, il primo criterio dei 5 è quello che c'è un criterio numerico in proporzione alla popolazione: 2,5 profughi ogni 1000 abitanti per le grandi aree urbane, 1,5 per ogni 1000 abitanti. Quindi è proprio fatto per evitarla la concentrazione, è proprio il primo dei 5 criteri, perché lì l'abbiamo sperimentato in questi anni: quando si supera una certa concentrazione sul totale dei residenti, soprattutto nei comuni più piccoli, succede l'ira di Dio, tensioni sociali, è ovvio che è così. Quindi questo le rispondo io al volo, perché no. Alessandro da Torino come la pensa? Io la penso così. Allora, io abito in un paesino che si chiama Mercenasco, vicino Ivrea, 1200 abitanti, sì. Ci sono 183 persone di colore. Aia. Quindi la proporzione è falsa, vengono dette delle grandi palle. Aspetti, questo criterio servirebbe a distribuire esattamente quelli che sono così concentrati in quelle aree, così Ricci? Cioè non devono avvenire più quelle concentrazioni che avvengono nel suo comune. perché quando avviene una concentrazione di oltre 100 in un comune di 1000 il fenomeno diventa ingestibile, ingovernabile per qualsiasi sindaco. E a quel punto la protesta si è giustificata. Io non voglio dire, non sto giustificandola personalmente, però si capisce perché nasce. Comunque il problema, come vedrete, resterà aperto. Passo avanti, speriamo che queste norme arrivino presto. Grazie ai nostri ospiti, continuate con la 24, appuntamento alle 8:20 domani mattina con Attenti a Noi Due.